Scoraggiarsi è facile e un arrendersi, un capitolare di fronte a certe situazioni in termini pugilistici è un gettare la spugna. Tutti più o meno siamo capaci a mostrare slanci di eroismo di fronte a situazioni negative o a intraprendere iniziative senza essere consapevoli di ciò a cui si andrà incontro. Meno come nel caso di Cristoforo Colombo che scoprì l'America pensando di andare in India. Ma nel prolungarsi delle difficoltà è facile avvilirsi e fermarsi, o tornare indietro. Non che sia sbagliato rivedere certe decisioni o tornare indietro quando ci si rende conto che la scelta è sbagliata. Ma indietreggiare o perdersi d'animo solo perché si incontrano delle difficoltà non è segno di forza né di carattere. Forse è per questo che sono pochi coloro che raggiungono risultati eccezionali come nel caso dei coniugi Adoniram, Judson e Anna. Anna è ricordata nella storia delle missioni come la prima donna missionaria americana e assieme al marito furono i primi missionari ad andare in Birmania. Quando arrivarono dopo 4 mesi di viaggio fu ordinato loro di tornare indietro. L'indifferenza dei birmani era deprimente e solo dopo 6 anni videro il primo convertito a Cristo. In seguito Judson, il marito di Anna, dovette sopportare le terribili prigioni orientali per ben 20 lunghi mesi. Si dice addirittura che nella storia delle missioni non si trovi narrazione più terribile di quella della sua prigionia, al punto che perfino tra i racconti fantasiosi si è mai inventato un evento più terrificante. Anna si ammalò più volte di febbre tropicale e morì a causa di uno di questi attacchi a soli 37 anni. Ai coniugi Adoniram toccò pure di dover porre nella tomba il loro primo nato, un bambino di 8 mesi. Eppure, come molti altri missionari, non si scoraggiarono di fronte a grandi sconfitte e privazioni, perché avevano un obiettivo molto superiore alle sofferenze che stavano attraversando. La costanza e fedeltà di certe persone fa riflettere, in un'epoca dove non si è più abituati a sopportare privazioni neppure le più superflue, né sofferenze anche minime. Per questo fa bene a tutti di volta in volta leggere la biografia di chi non si è scoraggiato davanti a motivi più che scoraggianti, in questo modo si ha occasione per confrontarsi e valutare attentamente la validità delle motivazioni del nostro sconforto. Spesso un confronto onesto e sincero della nostra situazione con quelle attraversate da persone della tempra di Adoniram Judson e Anna può dare nuovo vigore e nuovi obiettivi, tali da scuotere alle radici il nostro scoraggiamento. Proprio perché lo scoraggiamento fa parte della nostra debole natura umana, la parola di Dio presenta uomini che pur avendo compiuto opere straordinarie sono in seguito caduti nello sconforto. Dopo aver resistito e ucciso 400 adoratori del dio pagano Baal, il profeta Elia, scoraggiato di fronte alla malvagia Jezebel, inoltrandosi nel deserto per vari chilometri, andò a sedersi sotto una ginestra. Egli chiese all'Eterno di morire perché non si sentiva migliore di coloro che l'avevano preceduto. Il re Davide, l'uccisore del gigante Goliath, alto più di 3 metri, si scoraggiò di fronte all'incessante inseguimento di Saul e andò a rifugiarsi nel paese dei Filistei e chiedere asilo ad un pagano. Si scoraggiò pure il profeta Geremia dopo aver constatato la malafede del suo popolo e il benessere degli empi, lamentandosi con queste parole: «Tu sei giusto, o Eterno, come posso discutere con te? Tuttavia parlerò con te intorno ai tuoi giudizi. Perché la via degli empi prospera? Perché vivono tranquilli quelli che agiscono perfidamente? Li hai piantati e hanno pure messo radice, crescono e addirittura portano frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro cuore. Ma tu, o Eterno, mi conosci, mi vedi ed esamini il mio cuore nei tuoi confronti». Geremia 12, 1 a 3, il profeta. Geremia, prima di essere un profeta, era un uomo come tutti e, come tale, vedeva cose che lo sconfortavano. Come mai gli increduli vivono beati e in più navigano nel benessere, anziché essere colpiti da Dio, perché di conseguenza i giusti soffrono ingiustamente? Non è forse questo un motivo per essere scoraggiato e demotivato nel mio compito di profeta? Perché, o Eterno, perché? I conti non tornano. Le domande del profeta Geremia sono anche le nostre. Perché Dio permette che In una famiglia il marito tratti duramente la moglie privandola delle più elementari necessità solo perché questa ha posto fede in Cristo. Perché, come è successo ad un mio amico oltre che fratello, in fede meno la moglie tradisce il marito e in seguito lo abbandona solo per il fatto che questo ha lasciato una religione che non salva per seguire solo Gesù Cristo quale suo salvatore e padrone. Perché quando si predica Gesù Cristo come la sola verità ci si crea tanti nemici? Non sono queste ragioni per scoraggiarsi? Sì, le ingiustizie e le opposizioni causa la fede sono ragioni di scoraggiamento. E questo Dio lo sa, però Egli ha sempre una parola giusta per ogni circostanza. In effetti l'Eterno dà una risposta al profeta Geremia e di conseguenza anche a noi che occorre leggere, meditare, ma soprattutto piantare nel nostro cuore. Se tu corri con i pedoni e ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti sicuro solamente in un paese pacifico, cosa farai quando il Giordano si gonfierà? Poiché perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre hanno agito perfidamente con te, anch'essi ti gridano dietro a piena voce. Non fidarti di loro quando ti diranno buone parole. Geremia 12.56. Molto probabilmente Geremia si aspettava di essere consolato o almeno compreso per le sue esternazioni, ma evidentemente l'Eterno non la pensava così. Anzi, come spesso succede, l'Eterno incalza ancora di più mettendo in evidenza quanto sia necessario nelle situazioni difficili reagire con un colpo di reni per uscirne vittoriosi. L'Eterno, con la sua inaspettata risposta, scansa le domande di Geremia, non dà una risposta teologica che spiega perché i malvagi prosperano mentre i giusti spesso soffrono, ma ne approfitta per dare una lezione di incoraggiamento. Infatti, dice l'Eterno, se ti scoraggi nelle situazioni facili, se vai giù di morale per così poco, cosa farai quando ti si chiederà di non scoraggiarti in situazioni molto più difficili? Se ti scoraggi quando tutto corre nella norma, cosa farai quando l'acqua della difficoltà ti arriva alla gola? Stai attento a non scoraggiarti, Geremia, perché ti trovi in una situazione difficile, dato che i tuoi parenti stessi parlano male di te. Con queste parole, l'Eterno ha voluto confidare a Geremia che la sua chiamata non è facile. Ha voluto ricordargli che essere profeta è un compito che comporta molta opposizione e afflizione. Perciò la cosa più saggia è rimettersi risolutamente in cuore, di agire di fronte agli istinti dello scoraggiamento, considerando il tutto come un allenamento per affrontare prove maggiori. La risposta dell'Eterno fa riflettere. Tutti noi abbiamo certamente mille ragioni per scoraggiarci, perché situazioni difficili spuntano da ogni angolo della vita. Ma se lasciamo che questo sentimento invada la nostra anima, come ci sentiremo quando verranno tempi difficili e l'iniquità sarà moltiplicata? 2 Timoteo 3, 1 a 5. Se ci perdiamo d'animo in un momento di pace, cosa succederà quando vedremo alcuni apostatare dalla fede dando retta a spiriti seduttori? 1 Timoteo 4, 1. E quando la carità dei più si raffredderà, come ci comporteremo? Matteo mezzanotte 12. La cosa più saggia è quindi prendere risolutamente animo e andare avanti. Nonostante lo scoraggiamento sia un atto di debolezza, come tutte le cose, ha anche un lato positivo. Chi si scoraggia generalmente è un'anima sensibile che ama il Signore e la sua causa. Infatti, lo scoraggiamento di Elia era causato dal suo forte zelo per l'Eterno e la sua opera, mentre Geremia era scoraggiato perché amava intensamente la giustizia. Infatti, l'uomo che Dio usa per il suo regno è passionale, deciso, energico, pur avendo moltissimi motivi per essere scoraggiato, dovuti prima di tutto al suo vivere una vita solitaria, all'avere un'esistenza aggravata, al rendersi conto della sua grande debolezza, al soffrire amare delusioni e dall'essere sottoposto più di altri agli attacchi di Satana. Spesso chi serve Dio fedelmente resiste ad una scarica di frecce scagliate dall'arco di un infedele, per cadere poi mortalmente scoraggiato dal dardo scagliato dalla bocca di un fratello in fede. Sì, lo scoraggiamento è sempre dietro alla porta e il servitore di Dio accorto ricorda a se stesso ciò che è scritto nel libro dei Proverbi. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi mezzanotte 10. Queste parole non sono rivolte a noi come una prognosi in Fausta, ma per ricordare che da parte nostra dobbiamo obbedire ai tanti ordini di Dio di farci animo di essere forti e coraggiosi, Giosuè 1.6.7. E se questi sono gli ordini, significa che dobbiamo agire davanti allo scoraggiamento, il quale si presenta molto più spesso di quanto si pensi. Perciò, chi conosce Gesù Cristo personalmente e lo serve per gratitudine, si guarderà dallo scoraggiamento in sé e ne controllerà soprattutto le conseguenze. Se lo scoraggiamento ha il suo lato positivo, è saggio lavorare su quello, cioè vedere le situazioni che spingono a scoraggiarsi, esaminarle e ricercare il modo per uscire fuori dalla situazione, trovando pure ragioni valide per avere nuove visioni e incitamenti. Quindi, lo scoraggiamento può essere un motivo in più per fare progressi spirituali, per rinnovare pensieri e metodi, per servire Dio e soprattutto per continuare a tenere lo sguardo fisso su Gesù. Il re Davide disse: «Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra. Io non sarò mai smosso, perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta per la gloria della mia eredità». Salmo 16, 8. Scoraggiarsi è facile, ma non è poi neppure impossibile essere risoluti e meno come sta scritto. Considerare Gesù Cristo, che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, per non lasciarci abbattere dallo scoraggiamento. Ebrei 12.3. Se i primi cristiani hanno vinto l'odio e le cattive abitudini tenendo costantemente presente le sofferenze di Cristo, per noi non vi sono altre alternative. E sì, Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, Ebrei 12.2, a noi non restano altri obiettivi a cui mirare. Marzo 2007. Ellero.